Nelle nostre trasmissioni ci occuperemo spesso di questioni che riguardano l'ambiente, l'emergenza ambientale, che è un tema sul quale di per sé dobbiamo prestare tutti molte attenzioni, ma poi dal punto di vista scientifico, tecnico e anche dell'innovazione è uno scenario sul quale si sta creando insomma una sfida di enorme importanza. Sappiamo anche che è una sfida che non possiamo perdere, quindi tutto ciò che è ricerca nel trovare strumenti per riuscire ad ottenere il massimo della sostenibilità e quindi il risparmio in tante nostre attività, risparmio energetico per esempio, tutti questi strumenti sono di fondamentale importanza. Questa nostra trasmissione è in collaborazione con Rete Ambiente, che è una realtà che fa formazione e ricerca sui temi ambientali, e qui con noi adesso c'è Roberto Coisé. Benvenuto Coisé. Grazie, un saluto a tutti. Allora, lei Coisé è presidente di Rete Ambiente. Adesso però noi vorremmo fare una cosa, e cioè dirvi subito che sta per arrivare una direttiva dell'Unione Europea molto importante, decisamente strategica, che riguarda appunto le questioni ambientali. Però lei ci fa prima, così siamo sicuri che si capisce tutto molto bene, un esempio cruciale, tra l'altro, che è quello dell'edilizia, dei detriti edili. Sì, per parlare della direttiva dell'economia circolare, in effetti si dovrebbe riassumere un attimo che cosa diavolo è l'economia circolare, perché non ce n'è un'idea molto chiara. L'economia circolare non è soltanto il riciclo. Molto spesso la gente lo vive così, è semplicemente riciclare la materia. L'economia circolare in realtà è un altro processo, più complesso, ed è per questo che l'Unione Europea ha deciso a un certo punto di fare un pacchetto di direttive e dire a tutti i Paesi membri: occupatevi con questo spirito, con questa metodologia, della prossima sostenibilità. Un pezzo dell'economia circolare è il riciclo. Ad esempio, l'edilizia ha grande flusso di materie implicate. In Italia l'edilizia fa girare ogni anno circa, secondo le cifre ufficiali, 50 milioni di tonnellate di scarti che arrivano dalle decostruzioni e dalle demolizioni. In realtà sono molto di più di così, perché una parte sfuggono alle statistiche. Si calcola che siano circa un 100 milioni di tonnellate. 100 milioni di tonnellate, non so se ne avete un'idea, corrispondono grosso modo a metà dei materiali che in questo momento l'edilizia utilizza per costruire. Ma dove li prende l'edilizia i materiali per costruire? Li prende dalle cave. Quindi sforacchia il nostro territorio, tira fuori dalle cave materiali abbastanza preziosi per quantità enormi. Di questi appunto circa un 100, anche di più, milioni diventano scarti. Quando diventano scarti, di solito vengono buttati via. Cioè vanno in discarica, vanno a copertura delle discariche, vanno a riempire buchi, vanno a un utilizzo povero. Allora, il problema grosso è riuscire a capire se c'è un modo per prendere questi materiali, riportarli alla loro natura di flussi di materia utile e riutilizzarli nell'edilizia anziché bucare il territorio e tirare fuori i materiali dalle cave. Questo è un po' il principio dell'economia circolare e anche il principio che sta alla base di questa nuova normativa imposta appunto dalla Commissione Europea, che si attuerà nei prossimi mesi, in cui l'obiettivo è proprio di cercare di riutilizzare il più possibile quelle che sono gli scarti. Si chiamano forse in termine tecnico gli end of waste. Sì, si chiamano anche end of waste, anche se questa è terminologia normativa. Quando un rifiuto diventa un materiale utilizzabile, smette di essere un rifiuto e viene classificato come end of waste. Ma sì, la direttiva europea in effetti fa un'operazione gigantesca, cioè stabilisce per tutti i settori, per tutti i materiali che vengono impiegati nell'industria e nel consumo, degli obiettivi di recupero. E dice: per il tessile dovete recuperare il 40%, per il settore dell'edilizia bisogna recuperare l'80%, per il settore degli imballaggi bisogna recuperare il 60%. Obbligo. Ragazzi, cavatevela voi. Il modo in cui riuscirete a ottenere questi risultati, ogni paese se lo sceglie in funzione del suo territorio, delle sue tecnologie, ma è obbligato a farlo. Nell'Italia questa norma arriverà nell'autunno e in capo a un paio d'anni dovrà essere riorganizzato interamente il sistema industriale, il sistema di raccolta, il sistema di riciclo per rispettare questi obiettivi. Ma quindi sono di fatto le aziende che devono trovare un modo per recuperare queste cose e non farle più diventare rifiuti, perché va bene, una direttiva europea arriva, noi abbiamo un governo, c'è uno Stato, ma lo Stato da solo non può far niente, insomma. Infatti, secondo l'economia circolare, la materia non viene più vista come un materiale, ma viene vista come un flusso. Cioè, praticamente, se uno immagina, non so, immaginiamo un metallo. Il metallo è un flusso continuo, secondo i concetti dell'economia circolare. Cosa vuol dire? Che momentaneamente si incarna in una motocicletta, in una fibbia di cintura, in una punta di un ombrello o in una scatola di sardine. Ma è un momento di passaggio della materia. Diventa quella cosa, poi ne diventerà un'altra, poi ne diventerà un'altra. Magari si incorpora in una cosa per 6 mesi, in un'altra per 18 anni, in un'altra per 2 giorni, ma il flusso di materia deve rimanere costante. Questo è diverso dal riciclo, perché il riciclo era la nonna Ida che prendeva i sacchetti della spesa di carta, li metteva piegati per bene nel cassetto della cucina e li utilizzava un'altra volta, ma finisce lì. Questa concezione invece implica il fatto che tutti i flussi di materia, quindi sia le imprese, anche i cittadini, sono impegnati a seguire un criterio che alla fine fa sì che questi flussi tornino ad essere flussi. E questo implica immediatamente una serie di altre componenti di tecnologia, di economia, di intelligenza artificiale o di robotica, di ingegneria per fare i biomateriali, di genetica quindi. In sostanza si tratta di reinventare la materia. Ecco, nei prossimi mesi appunto racconteremo un po' anche questi cambiamenti che si stanno avendo. Possiamo vederla un po' così, cioè coloro che produrranno ovviamente nuovi materiali, nuovi prodotti, dovranno anche preoccuparsi poi della fine che faranno, un po' come adesso forse succede per gli elettrodomestici grandi, quando si acquista una lavatrice, in qualche modo si contribuisce già a quello che sarà il suo smaltimento, quindi deve essere un'opportunità per le aziende di avere sempre materiali nuovi da riutilizzare, da far rivivere. Sì, a rigore questa operazione è pensata per essere vincente dalle due parti, sia di chi produce che di chi consuma, nel senso che chi produce deve stare attento ai materiali che arriveranno dallo scarto di quello che ha prodotto, e questo è un costo. Dopodiché quei materiali devono essere utilizzati da chi lo commercia e da chi lo utilizza con certi criteri. Devono essere mandati a un'industria che li recupera e li ricicla, e anche questo è un costo, e fin qua si spende. Poi da un certo punto in poi questi materiali, che diventano disponibili a basso prezzo perché non sono più materiali vergini ma arrivano da una materia già disponibile, ritornano nell'industria, e a quel punto l'industria risparmia. Se si chiude il cerchio, la cosa sta in piedi. Se non si chiude il cerchio, non si fa economia circolare, si fa quello che faceva la nonna mettendo i sacchetti nel cassetto della cucina. Ecco, in questo grande processo di rinnovamento e efficientamento si possono vedere anche delle nuove opportunità di lavoro, anche professionali, nuove professioni proprio che nascono. Assolutamente sì. Per esempio, una delle componenti di questa economia circolare, al di là del riciclo, è il cosiddetto remanufacturing, cioè il fatto di prendere un prodotto vecchio e provare a vedere se si riesce a farlo diventare con le stesse prestazioni che aveva prima, o addirittura migliori. Questa cosa implica due vantaggi. Uno, che tutti i materiali vengono riutilizzati, quindi non c'è impiego di materiale vergine. Due, che l'impresa produttrice non è quasi più coinvolta, perché sono coinvolti dei piccoli laboratori. Risultato: noi che per esempio importiamo alcuni materiali, metti telefonini, altri materiali tecnologici, li importiamo e li produciamo in Italia. Al momento in cui vengono rigenerati, noi creiamo occupazione qui e abbiamo un'attività, quella del remanufacturing, che diventa a alta intensità di lavoro e a bassissima intensità di consumo di materia. Bene, staremo a vedere, siamo qui insomma per raccontare un po' questa trasformazione, soprattutto dal punto di vista dell'innovazione e della tecnologia, che è il nostro core. E che conta tantissimo in questo settore. Grazie José. Grazie a voi. Il tema di oggi è quanto mai di attualità. Qualcuno senz'altro starà partendo con il traghetto per raggiungere le isole, attraversando il Mediterraneo con le imbarcazioni delle compagnie di navigazione, insomma quelle classiche. Queste imbarcazioni hanno uno strumento in più a bordo quest'anno e serve per il monitoraggio di balene, delfini e tutta la fauna marina del Mediterraneo. Qui con noi oggi c'è Elena Valsecchi, che è ecologa molecolare dell'Università di Milano Bicocca, che ha lanciato questo progetto che si chiama Tutti pazzi per il Mediterraneo, Mad for Mad. Intanto benvenuta Valsecchi. Grazie, un saluto a tutti. Ci racconta meglio come faranno questi traghetti, appunto, quest'estate ad aiutarvi a monitorare e controllare la biodiversità del mare? Certo, dunque il nostro progetto si integra all'interno di un network che è già stato inaugurato una decina di anni fa da ISPRA, e da un paio di anni ci siamo affiancati a questa iniziativa con uno strumento in più, appunto come dicevi tu, uno strumento che non è niente di particolare se non delle semplici sacche che vengono riempite di acqua marina, perché da questa acqua marina noi riusciamo ad estrarre quello che si chiama DNA ambientale, ovvero tutte quelle tracce di DNA rilasciate nell'ambiente da ciascun organismo vivente. Quindi anche noi, quando ci muoviamo nello spazio, rilasciamo delle piccole particelle di DNA. Come avviene l'analisi di questo DNA? Cioè, queste sacche vengono raccolte una volta che il traghetto arriva in porto, voi recuperate quest'acqua, la portate in laboratorio e l'analizzate, funziona così? Sì, allora l'acqua viene raccolta proprio durante il tragitto. Noi abbiamo selezionato delle stazioni di campionamento di interesse biologico, quindi sulla rotta abbiamo identificato i punti che potrebbero essere più interessanti, e in modo anche che siano abbastanza equidistanti. Quindi raccogliamo queste sacche d'acqua, che sono circa una decina di litri, e le processiamo immediatamente a bordo, sia perché la qualità del DNA ricavato è migliore, ma anche per un problema logistico, ecco, non dobbiamo poi scendere con litri e litri d'acqua dal traghetto. Quindi la compagnia normalmente ci dà a disposizione una cabina e la, diciamo, trasformiamo in un laboratorio navigante. Però questa è soltanto la prima fase. Questi filtri sui quali viene trattenuto il DNA ambientale vengono poi portati da noi in laboratorio in Bicocca e vengono ulteriormente processati, perché dobbiamo proprio estrarre da questi il DNA. No, infatti, giusto per fare chiarezza, questo DNA vi dice, ad esempio, che tipo di animali, cetacei, organismi ci sono ovviamente nel mare, e anche vi dà l'idea della salute del mare, della biodiversità, perché una specie c'è o non c'è, insomma, fa la differenza. Certo, e poi noi riusciamo anche ad intrecciare la presenza delle varie specie, cioè mentre fino adesso chi andava a studiare cetacei cercava soltanto cetacei perché era l'unica cosa che era facilmente visibile dalla superficie, noi abbiamo un quadro di tutta la piramide trofica, quindi noi sappiamo anche in concomitanza con la presenza di quale altra specie marina, adesso per dire, non so, le acciughe o le sardine, se vediamo che c'è una correlazione con la presenza poi di mammiferi marini. Questi traghetti in realtà per tutta la fauna del Mediterraneo hanno creato parecchi problemi, invece voi adesso pensate che possano essere utilizzate, insomma, e non usare imbarcazioni ad hoc per questa analisi? Sì, perché sicuramente l'utilizzo dei traghetti di linea offre tantissime opportunità, diciamo, aggiuntive. Innanzitutto la possibilità di raggiungere aree di alto mare di cui ancora si conosce poco e che diciamo costantemente vengono battute appunto dai traghetti di linea, quindi è un'opportunità unica, costo aggiuntivo zero, ma anche da costo dal punto di vista ecologico, ecco, non ci sono ulteriori emissioni per la raccolta di questi dati. E poi queste tratte vengono percorse anche durante la notte, il giorno, quindi ci può dare una visione complessiva sulle 24 ore, ma anche sulle stagioni e sugli anni. Ottimo, allora davvero incrociamo le dita, in bocca al lupo Valsecchi per questa estate di ricerca sul traghetto. Grazie anche a nome di tutto il team, siamo in 10 con tantissimi studenti, il mare ci aspetta. Quello che avevamo da raccontarvi ve l'abbiamo raccontato. Solo per oggi però abbiamo ancora tante storie nel cassetto, vi aspettiamo per una nuova puntata e vi ricordiamo che tutte le puntate le trovate in podcast sul sito di Radio 24. Ciao Federico, ciao ascoltatori. Ciao Chiara. Da Rovella, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.